Sì, allora nasce da un progetto che abbiamo vinto, finanziato dal Ministero Creative Living Lab, è un po' con l'idea di andare a scoprire la natura o comunque quegli elementi naturali che sono celati spesso alla nostra vista e che con il cambiamento climatico poi invece emergono solo in momenti critici. Per esempio l'alluvione dell'anno scorso, abbiamo scelto proprio l'acqua per questo motivo. Diciamo che alle Serre da un po' di anni, anche con il Festival Resilienze, proviamo a far dialogare arte e scienza per parlare di cambiamento climatico, non soltanto utilizzando i dati scientifici, ma provando ad allenare una sensibilità che ci serve poi per anche, diciamo, orientarci in questa crisi ambientale in cui viviamo, dove, diciamo, il nostro punto di vista, ma poi non è soltanto il nostro, è che i dati scientifici sono importantissimi, ma spesso non ci aiutano come coordinate a relazionarci con questo problema. E quindi abbiamo coinvolto questo duo di artisti, si chiamano Andrea Caretta e Raffaella Spagna, stanno a Torino e hanno in realtà una lunga esperienza di arte relazionale, arte nello spazio, arte che coinvolge le persone nel creare delle relazioni con l'ambiente circostante, con la natura, diciamo, con la N maiuscola. Quindi abbiamo chiesto loro di costruire insieme a noi un lavoro che appunto coinvolgesse la loro sensibilità artistica, però anche delle riflessioni, diciamo, sulla crisi climatica e in particolare il tema dell'acqua. E quindi dopo diciamo un po' di progettazione che ha coinvolto anche Vitruvio, l'associazione che poi a Bologna, no, si occupa molto di far scoprire l'acqua nascosta a Bologna, con loro abbiamo costruito questo percorso che partirà da Suviana, quindi dal bacino di Suviana, quindi in alto, diciamo, colline, Appennini, dove l'acqua si raccoglie e poi da lì scende e, diciamo, scende fino a Bologna e poi prosegue per andare poi verso il Po, verso il mare. E quindi faremo questo percorso a piedi, in parte a piedi, in parte in treno, perché in realtà, diciamo, è un po' lungo, però sarà una buona parte a piedi, dove proveremo a un po' fluire come l'acqua, quindi a sentirci l'acqua, ma anche a scoprire poi come l'acqua scende, come incontra l'uomo, perché per esempio in questo percorso c'è il depuratore gestito da ERA e lo andremo a visitare. Quindi, diciamo, un po' alternando aspetti, diciamo, più naturalistici, anche un po' meno, dove l'uomo è intervenuto meno, e altri invece punti dove l'uomo è intervenuto di più, proveremo a seguire l'acqua, a vederla scomparire, poi a vederla ricomparire, fino a poi una uscita fuori da Bologna speciale, che non ti svelo. Certo. Sempre, insomma, seguendo l'acqua. Ecco, ti volevo chiedere, Nicoletta, quale sarà, diciamo, l'apporto del duo artistico? Innanzitutto seguiranno, immagino, tutta la camminata, la passeggiata, e costruiranno proprio un'esperienza artistica intorno a questo? Sì, assolutamente sì. Diciamo che l'abbiamo progettata insieme a loro. Loro, diciamo, ci tenevano tantissimo ad applicare un po' questa estetica del camminare, cioè quindi usare il camminare proprio per immergersi all'interno di luoghi. Il procedere anche lento che permette il cammino è un procedere che apre a un ascolto e anche a un'osservazione, a un sentire e anche a un tempo, ecco, perché l'altro tema importante è il tempo, un tempo più dilatato che non è quello a cui siamo abituati o che comunque nella nostra vita di tutti i giorni effettivamente viviamo. E quindi diciamo il loro apporto è nel disegno, diciamo, di tutta questa iniziativa, di tutta questa esperienza, nei tempi di questa esperienza, nel fatto che il gruppo, diciamo, sarà invitato ognuno a portare una parte di proprio sentire, propria conoscenza, quindi, diciamo, non sarà un gruppo guidato da Andrea Caretta e Raffaella Spagna, ma sarà un gruppo che diciamo proverà a lavorare insieme, proprio come gruppo, insieme anche agli artisti. Tutto il lavoro è anche pensato in modo estremamente conviviale, dal dormire al mangiare, e quindi, diciamo, anche questo è un po' parte della loro proposta artistica, che appunto un po', come ti dicevo all'inizio, nasce da un'esperienza di arte relazionale, certo, anche da una loro, diciamo, esperienza pregressa di arte relazionale. Come partecipare, Nicoletta, a tutto a questa bellissima esperienza? Allora, abbiamo 15 posti, quindi non molti, però diciamo era necessario per avere un gruppo che potesse camminare assieme. Potete andare sul sito delle Serre dei Giardini Margherita cercando Fluido, Flowing to the Sea, Corpi Rabdomanti, o comunque insomma andando sul sito delle Serre trovate la pagina e c'è la possibilità di iscriversi. Tra l'altro la quota di partecipazione è estremamente, diciamo, ridotta grazie appunto a questo bando che abbiamo vinto, sono soltanto 60 euro per 3 giorni comunque in cui pernottamenti e pasti sono inclusi. Si parte il 12 di aprile e si torna domenica 14. Esatto, da venerdì 12 a domenica 14. Potete quindi, cioè, è possibile iscriversi compilando un form che c'è sul sito delle Serre dei Giardini Margherita.